l'osservatorio nasce con l'idea di mappare un po' tutte le ordinanze che vengono emesse ed è un lavoro molto difficile perché non esistono dati ufficiali, quindi noi siamo costretti fondamentalmente a spulciarci le cronache locali e andare a tirare fuori quelli che sono i racconti dei giornalisti del luogo o a volte le veline della questura, e sono anche pieni di inesattezze, si confondono i provvedimenti, ad esempio il foglio di via con il mini dasco. Ultimamente abbiamo visto un incremento e la volontà dei sindaci di dotarsi di questo strumento di repressione senza poi avere un reale effetto sulla vita delle città, perché col mini dasco stiamo parlando di un allontanamento di 48 ore che si capisce bene che non è una, insomma, 48 ore passate in un altro posto non risolvono alcun tipo di problema da qualsiasi punto di vista lo si voglia guardare, però appunto stiamo raccogliendo dei casi abbastanza grotteschi anche. C'è ad esempio il caso di Genova che ha fatto molto discutere ultimamente. Sì, c'è il dato di Genova dove la giunta del centrodestra che è stata appunto proposta una multa per chi rovista nei cassonetti. Notizia di oggi che anche il vescovo si è espresso contro questa cosa, mi pare abbastanza normale che ci sia una sollevazione contro il voler criminalizzare chi si trova in condizioni di indigenza. C'è il caso di Genova, c'è il caso eclatante appunto, come dicevo prima, grottesco di Sesto San Giovanni, dove si è festeggiato all'interno della giunta il raggiungimento dei 200 DAF urbani. Stiamo parlando proprio di uno strumento con il quale alcuni sindaci hanno dei deliri di onnipotenza. Gli strumenti sostanzialmente fino a questo momento sono due, cioè gli allontanamenti o le multe a persone che non se lo possono permettere. Il caso di Genova è quello più recente, però voi come osservatorio avete testimoniato che un episodio simile a Bergamo, dove un senzatetto si è visto comminare una multa di 100 euro perché col suo giaciglio di fortuna intralciava l'entrata di un edificio. Esattamente, tutto questo appunto in questa situazione, continuo a dirlo, abbastanza grottesca, però si aggiungono anche le sanzioni pecuniarie a chi soldi non ha, come evidente, altrimenti non vivrebbe in quelle condizioni, per cui a Bergamo si andava a multare di 100 euro un senzatetto perché stava sulla strada, ossia perché esisteva nella sua definizione di non avere una fissa dimora. E noi ci stiamo anche interrogando su questo, perché ovviamente risulta tutto troppo assurdo. Anche l'allontanamento di 48 ore, come dicevo, è un metodo, uno strumento repressivo che convince poco sotto qualsiasi ambito. Non vorremmo anche che le amministrazioni comunali stiano utilizzando il dato urbano soprattutto per la sanzione pecuniaria, un po' come si fa per gli autovelox, e quindi per rimpinguare le casse comunali. Attenzione, rimpinguare solo a livello di scrittura in bilancio, perché è evidente che poi queste multe non verranno mai incassate. Quindi adesso stiamo cercando di indagare anche quel filone, chiedendo alle amministrazioni di sapere se appunto queste multe che accompagnano il mini DAS vengono poi contabilizzate gonfiando i bilanci di soldi che in realtà non ci saranno mai. Poi in realtà questi provvedimenti, come dire, influiscono anche sull'orientamento dell'opinione pubblica, e c'è un caso particolare che segnalate, quello di Cottolengo, dove è stata riaperta una mensa per i poveri. Uno dice buona notizia, ma come è stata riaperta mette, come dire, anche un po' i brividi. Sì, è stata riaperta la mensa appunto del Cottolengo e la novità è che ci sono dei tornelli all'ingresso e c'è la richiesta di lasciare le impronte digitali. Abbiamo già i brividi a pensare a come vengono schedati i migranti quando arrivano sulle coste italiane, pensare che addirittura questo viene usato per offrire un servizio di carità, di solidarietà, rende tutto ancora più aberrante. Sono rimasti molto colpiti anche perché ci è rivenuto alla mente il fatto che al Cottolengo è proprio ambientato anche il racconto di Calvino, La giornata di uno scrutatore, in cui lui racconta un po' la grigia burocrazia del voto che interfaccia con queste realtà fatte di persone con problemi sia fisici sia mentali e di estrema povertà. Ecco, ci è sembrato di vedere lo stesso schema, ossia la solidarietà che si interfaccia con queste problematiche, però mettendo non umanità a disposizione, ma mettendo burocrazia, impronte digitali e tornelli. Chiedo un'ultima riflessione, perché pochi giorni fa Banca Italia ha lanciato l'allarme sulla povertà crescente in Italia, un italiano su quattro è a rischio povertà. Sembra che le ragioni azioni che portano all'indigenza e anche alle minacce, tra virgolette, al decoro, non vengano mai prese in considerazione da questi provvedimenti. No, assolutamente, si va sempre, diciamo, a punire quelli che sono poi gli effetti, ma non si va a agire sulle cause. Noi abbiamo rilanciato appunto questa rubrica nell'osservatorio che si chiama Conosci il tuo nemico, anche per smontare questa retorica dominante, per dimostrare, dati alla mano, poi stiamo parlando di dati dell'Istat, comunque sia dati istituzionali, che in realtà i senza tetto, i mendicanti o i venditori ambulanti o gli occupanti di case sono persone che non commettono fondamentalmente un crimine spinti da chissà quale voglia di avidità, ma sono persone che si trovano in stato di necessità e fanno solo quello che serve loro per vivere. E come dici tu, non ci sono misure, non vengono prese misure per contrastare quelle che sono le cause di queste situazioni. Si va solo a reprimere. Tutto questo accompagnato anche ad altri dati che vanno citati, come quelli del Viminale sulla criminalità e sui reati che sono in calo, dati che però non riescono a smontare la narrazione tossica che c'è intorno ai senza tetto, agli homeless, ai migranti, agli occupanti di casa.